Dunque, mi sembra interessante la composizione di questa platea. È stata una scommessa della segreteria provinciale della FLC di Napoli, perché non è agevole, non è semplice, non si può dare per scontata la possibilità di mettere insieme RSU e dirigenti scolastici. Ovviamente parlo ad una platea che ha una comunanza di valori fortissima, che è radicata nella stessa iscrizione al nostro sindacato, ma tra di voi ci sono anche persone, come dire, interessate alle politiche, alle posizioni della FLC-CGIL, ma non propriamente aderenti. Quindi la molteplicità delle interpretazioni rispetto agli ascolti è tale da contribuire ad arricchire quello che stiamo facendo insieme, anche perché ci riserviamo di dare ampio spazio al dibattito. La scommessa è stata proprio quella di partire da due ruoli che normalmente nella scuola sono chiamati a collaborare e a condividere, ma non di rado si trovano su posizioni contrapposte, non di rado hanno difficoltà a limare gli aspetti, come dire, della relazione che poi possono determinare o meno un buon contratto, a prescindere dai contenuti del contratto di scuola stessa. Accanto a questa la determinazione dell'apparato ministeriale che, spostando in capo alle scuole, alle reti, agli ambiti, pezzi importanti del lavoro amministrativo, stanno, come dire, attuando una virata su un aspetto che vorrei sottoporre alla vostra attenzione, che secondo me è un aspetto profondamente culturale. Cerco di spiegarmi meglio. Noi, per circa dall'autonomia in poi, forse per più di un decennio, noi ci siamo, come dire, imbevuti di una cultura dell'autonomia interpretata non in senso solidaristico e collaborativo, ma troppo spesso interpretata come cultura della competizione. Un esempio fra tutti, non voglio parlare della corsa ad avere il progetto approvato e finanziato dall'ufficio scolastico provinciale, ma un esempio più banale è quello del dimensionamento. Ad un certo punto in Regione Campania, quando ormai ci si era determinati ad affrontare il tema dimensionamento e la Regione ha cominciato a intervenire con le delibere annuali sforbiciando a destra e a manca, si è attivata in una logica di mera competizione una corsa a mantenere i 600, gli 800, ad arricchire la propria scuola, in alcuni casi a farla diventare addirittura ipertrofica attraverso le politiche scolastiche territoriali che cercavano di strappare l'alunno alla scuola vicina. Mi riferisco in modo particolare al mondo degli istituti comprensivi, per esempio, o ancora alla moltiplicazione degli indirizzi per mantenere l'autonomia nelle secondarie di secondo grado. Cioè sono stati interventi, sono state attività messe in campo con il lodevole scopo di mantenere l'autonomia scolastica a quella unità scolastica, ma che si sono trasformate in un'attività competitiva strenua, forzata, forzosa, molto spesso deprimente il livello culturale generale, perché si era focalizzati a fare gruppo contro un altro gruppo che era altrettanto focalizzato a fare gruppo contro gli altri. Non sono state poche le dinamiche negative che sono passate alla storia, addirittura consigli d'istituto che hanno denunciato altri consigli d'istituto, giudici che si sono dovuti esprimere su richieste delle famiglie rispetto a scelte degli enti locali nell'attribuzione dei plessi, dei gruppi di alunni, dei servizi e così via. Questo tutto, secondo me, all'interno di una cultura profonda della competizione tendente a separarci, a dividerci, a dividere i profili, quindi il dirigente contro la RSU, la RSU contro il dirigente, i dipendenti tra di loro divisi, i docenti contro il personale ATA contro i docenti. Anche all'interno di una dinamica nazionale, dei governi nazionali che hanno cercato di frammentare il mondo del lavoro per renderlo più debole, e oltre questo poi in microcosmi una scuola contro l'altro, non più la scuola della comunità intesa come compartecipazione ad un progetto complessivo di formazione del territorio, no? La cosa a cui faceva riferimento Mario nella sua relazione, ma pezzi di comunità abbarbicati e identificati su una sola scuola che lotta contro le altre. Oggi, paradossalmente, questa modalità è, come dire, ha avuto un'implosione automatica, un'implosione naturale, muore di morte naturale finalmente, dimostrando tutta la sua inefficacia per gli scopi del sistema scolastico nazionale e dimostrando anche che non si va lontano in un lavoro, in un mestiere nel quale la collaborazione, la condivisione, la cooperazione sono la matrice esistenziale di quel lavoro stesso. Non è possibile utilizzare forme competitive spinte perché quella matrice abbia poi la possibilità di dispiegarsi. È una contraddizione in termini. Quindi noi oggi, per l'implosione del sistema amministrativo, per la volontà ministeriale di decentrare e liberare di quante più attività gli uffici centrali e periferici, noi siamo costretti a rivedere quelle posizioni, a ritornare a parlare di temi che erano cari alla scuola degli anni 70, degli anni 80, tutto quel processo elaborativo e culturale che ha portato poi alla definizione dell'autonomia scolastica come possibilità per la scuola autonoma di curvare l'offerta formativa ai bisogni formativi del territorio. Noi partivamo da quel tipo di elaborazione. Poi quell'autonomia ci è stata strappata ed è diventata qualche altra cosa, cioè un essere l'uno contro l'altro armati per cercare di avere il PON, i progetti finanziati dalla regione, dall'ufficio scolastico provinciale quando erano progetti nazionali, attraverso le forme più strane a volte di concorrenza. Oggi Mario metteva bene l'accento sulla necessità di ripartire dal termine, secondo me, della condivisione, no? Condivisione dei principi, delle pratiche, degli scopi. Sono pezzi di lavoro su cui dobbiamo riorientare tutta la parte professionale che lavora, vive e opera nella scuola, perché dopo più di un decennio di contrapposizione, oggi dobbiamo fare viraggio culturale. E in questo tentativo di viraggio culturale noi abbiamo fatto la scommessa di mettere insieme dirigenti ed RSU. Perché secondo noi è attraverso il valore della condivisione, quindi della discussione fino ad esaurimento, della, come dire, capacità di smussare gli aspetti più aspri delle contrapposte posizioni dialettiche per farle rientrare in una dialettica che sia la normalità della vita di quella scuola e che deve esercitarsi non solo al tavolo delle trattative ma anche nel collegio dei docenti, perché la cultura della competizione nel momento in cui ha creato il gruppo della scuola A posizionato contro il gruppo della scuola B ha azzerato la capacità elaborativa, la ricchezza culturale e propositiva all'interno del collegio dei docenti, perché si superavano le proposte, le differenze interne ai collegi dei docenti per rispondere alla chiamata alle armi, quel meccanismo tribale per cui se sono in pace con il mondo litigo con mio fratello, se invece sono in guerra con il mondo sono in pace con mio fratello e con la mia tribù. Noi oggi siamo chiamati a testimoniare questo viraggio e lo sforzo e il tentativo che vi chiediamo nella duplice azione che riguarda tutto ciò che attiene alla formazione, alla vita e alla strutturazione delle reti, ma anche tutto quello che riguarda la contrattazione di istituto e quindi la tenuta di corrette relazioni sindacali, questi due pezzi secondo noi sono degli strumenti formidabili per contribuire a questo viraggio culturale, partendo dal mettere insieme gli aspetti di rappresentatività dei lavoratori, la RSU rappresenta unitariamente i lavoratori che hanno eletto quelle persone per il tavolo delle trattative, e il dirigente scolastico che è il rappresentante dell'amministrazione, ma che nella sua funzione monocratica rappresenta l'intera unità scolastica. Non è un ragionamento facile. Soprattutto non è un ragionamento facile oggi perché probabilmente siamo chiamati a depurarci delle scorie di un tipo di percorso elaborativo che ci ha in qualche modo e soprattutto all'interno dei collegi dei docenti, dei corpi professionali, ha demolito molti di quei principi che inizialmente hanno avvicinato le persone a questo mestiere faticoso che è l'insegnamento, no? La formazione delle nuove generazioni. Io, se dovessi fare un parallelo con quello che è accaduto ieri nelle urne, no? Dopo una campagna elettorale così pesante, difficile, faticosa, dove nessun termine è stato risparmiato per offendere l'uno o l'altra fazione, dove l'Italia sembrava spaccata in due rispetto alla propulsività nell'uso dei mezzi di comunicazione formali e informali, a partire dalle RAI, dalle reti RAI e fino agli organi di stampa. E l'altra parte, quella del no, quella definita accozzaglia, che sembrava invece minoritaria e oppositiva per il solo gusto di dire no, oggi si trova in una situazione nella quale il progetto comune deve essere lo spirito comune. Non è pensabile cambiare le regole spaccando l'Italia, e questo gli italiani lo hanno capito bene. Non è pensabile assegnare una riforma fondamentale come quella della Costituzione in capo ad una parte degli italiani. Quel tipo di riforme deve essere massimamente condiviso. È come un po' recuperare le regole del gioco. E noi questo spirito lo dobbiamo assumere anche all'interno delle unità scolastiche, cioè recuperare la capacità di guardare l'altro, che fino a ieri abbiamo visto come la controparte, come l'altra parte con cui ragionare necessariamente e anche con gusto, perché se cominciamo a riascoltarci senza utilizzare i filtri e gli schemi della propaganda, prima Elvira faceva riferimento al preside sceriffo, se ne sono dette tante che potremmo culminare da un lato il preside sceriffo, dall'altro l'insegnante assenteista, l'insegnante incapace, l'insegnante che picchia i bambini, l'insegnante che fa violenza sui bambini, no? Quindi poi ovviamente se un governo è deciso ed è orientato a sottrarre costantemente risorse alla scuola, utilizza i modi e le forme della pubblicità progresso per mettere in croce l'intera scuola. Metterla in croce significa depotenziarla nella sua autorevolezza sociale. Non sto dicendo che non si deve intervenire quando ci sono deviazioni, anzi, quelle sono assolutamente inaccettabili, soprattutto perché noi non abbiamo a che fare con pratiche e carte, ma abbiamo a che fare con teste e personalità. Ma ci sono modi e modi, e ovviamente buttare dalla brunetta in poi, pensare all'impiegato pubblico in generale come quello che è assenteista, che ha la 104, che è tutelato, che lavora poco, che non fa quello che dovrebbe fare e che tuttavia riceve lo stipendio nonostante che l'analogo, il compagno di banco dell'impiegato pubblico invece trova i cancelli della fabbrica chiusa e non riesce ad arrivare a fine mese con la cassa integrazione. Il demonizzare l'impiego pubblico, il pubblico impiegato nelle sue varie forme che vanno dal ministero ma fino alla scuola, significava legittimare in modo culturale profondo, parlando alla pancia dei cittadini, soprattutto di quelli che in prima battuta hanno subito più degli altri la crisi economica, per legittimare le storture e la sottrazione di risorse a quello che noi definiamo i diritti di cittadinanza. Non la voglio fare lunga perché abbiamo tante cose su cui ragionare. Però lo sforzo che vi chiedo oggi, in questo stare insieme in sala, sono molto contenta dell'adesione di tanti dirigenti scolastici e di tanta parte della nostra RSU, lo sforzo che vi chiedo è quello di cercare di cogliere, al di là delle differenze che ci devono stare per far sì che siano ricchezza e pluralità, cercare di cogliere le comunanze che ci vedono insieme nel tragitto quotidiano, per cercare di rendere esigibile quella tutela costituzionale che è il diritto allo studio. Cioè pensiamo a coloro che stanno nelle nostre aule, che dovremmo in qualche modo fornire degli strumenti culturali per interpretare il mondo e per adattarsi ad esso, e cerchiamo di farlo insieme, impegnandoci a lavorare affinché le sterili contrapposizioni diventano foriere di avanzamenti nella negoziazione. Io penso che dalla rete al contratto, la parola, lo slogan, che non può non essere, come dire, la nostra chiave di interpretazione, non può che essere condivisione. Discutiamo, appiccicammici, tirammici i capelli, ma alla fine troviamo una soluzione condivisa, e quanto più largamente condivisa se vogliamo che sia di qualità per la scuola e per gli alunni. Detto questo, ringrazio per aver accettato l'invito, ringrazio Proteo, Chiara Stella, che ormai conoscete, la nostra presidente provinciale di Proteo, ringrazio Elvira, la rappresentante, la responsabile della struttura di comparto regionale dei dirigenti scolastici, ringrazio Armando Catalano, che lavora nel centro del Dipartimento Nazionale della Contrattazione, che in queste ore è impegnatissimo anche rispetto all'accordo firmato dalle organizzazioni sindacali generali rispetto al riavvio, alla riapertura delle trattative per il rinnovo del contratto, e magari se Armando ci dà qualche notizia di prima mano sarà una cosa molto gradita. E chiamo Maristella Mortellaro, che introdurrà la seconda parte del tema. Noi abbiamo deciso di fare a scacchiera: reti contratto, ok? Quindi Maristella introdurrà la seconda parte di questo binomio che stiamo cercando di tenere in piedi, di intersecare, che attiene alla contrattazione di scuola.